Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini Studio e di Daici in regia per lo spazio di ascolto riproposte di alcuni eventi e incontri che si sono svolti in questo anno pastorale nel territorio della Diocesi di Padova. Con questo spazio concludiamo l'ascolto del ciclo di conferenze 2017 promosso dall'Associazione Ex Alunni dell'Antonianum, che ha sede in Prato della Valle a Padova, la medicina, arte, scienza e pratica etica. Un ciclo di incontri che si è svolto tra la fine di gennaio e tutto il mese di febbraio, con gli interventi di diversi esperti che hanno toccato vari aspetti appunto del tema della salute e della sanità. I costi della salute approfonditi dalla Ragioneria Generale dello Stato, Daniele Franco, il tema dell'etica, il nascere e il morire col professor Carlo Casalone, docente di bioetica. Il tema dei trapianti con Alessandro Nanni Costa, direttore generale dell'Istituto Nazionale dei Trapianti. Il tema della salute perfetta è una promessa, un'utopia. Nella scorsa puntata la voce della docente di filosofia morale Maria Teresa Russo. Concludiamo oggi con Gianfranco Gensini, già clinico medico di Firenze, dalla medicina personalizzata alla medicina integrata. Gensini è diventato professore ordinario di medicina integrata all'Università di Firenze nel 1990 e preside della facoltà dal 2001 al 2007. Ha pubblicato più di 650 pubblicazioni su riviste internazionali. Il suo impegno di ricerca prevalente nel campo della trombosi. È stato fondatore del Centro Italiano di Evidence-Based Medicine, consulente editoriale di importanti riviste internazionali. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Grazie, buonasera a tutti. Per me è stato un grande onore quando mi è stato chiesto di venire a condividere questi concetti, l'idea di venire a parlare a Padova, che nella mia vita di professionista ho sempre considerato, anche esplicitamente, la sede in cui la medicina si studia e si insegna e si apprende meglio in Italia. Io sono stato preside a medicina per quasi 15 anni a Firenze, quindi avevo un punto di osservazione adatto a percepire come la medicina si insegni a Padova e si sia insegnata nel tempo e si insegni a 360 gradi. Questo è molto importante perché la nostra professione è fatta di capacità di ipotizzare situazioni che non sempre conosciamo per esperienza diretta. L'avere avuto un trasferimento di conoscenze e competenze che consenta di orientarsi nelle situazioni più varie rappresenta un vantaggio per i pazienti che abbiamo di fronte, ma anche per la vita professionale, e Padova in questo certamente rappresenta un elemento molto importante. Io ho avuto la fortuna di avere avuto fra i miei collaboratori colleghi e colleghe laureati a Padova, e la capacità clinica che viene sviluppata in questa sede è particolare. Per questo il mio particolare piacere di essere qui oggi, e ringrazio Padre Ciman di questo invito e l'amico professor Grego, perché credo che questo argomento che mi è stato dato, io ovviamente lo affronterò anche sulla base di quello che ho fatto e su quello su cui sto lavorando adesso, e cercheremo insieme di capire qualche cosa. Innanzitutto io mi permetto di fare un tentativo di variazione del titolo, perché in realtà la medicina personalizzata nasce perché c'è stata la medicina basata sulle evidenze. Se non ci fosse stata, probabilmente questo è un concetto che sarebbe stato più diluito. Questa è un'immagine del mondo prima del 1492, perché quello che noi sappiamo e facciamo è collegato con quello che sappiamo. Come sapete bene, non importa che ricordi cos'è che ancora non si conosceva nel 1492, poi fu affrontato il percorso verso quello che si definiva il Katai, Katai che era una distanza imprecisata, si pensava fosse molto lontano, e poi si scoprì che c'era in mezzo alle coste atlantiche, alle colonne d'Ercole e il Katai, c'era di mezzo il continente americano. Quindi è un'evidenza che in precedenza mancava. Tutti i ragionamenti fatti prima di allora tenevano conto del fatto che c'era il Katai. Non c'era niente, perché non c'era nessuna evidenza che ci fosse qualcosa. Poi, dopo il 1492, la rappresentazione è diventata, pur in qualche modo rudimentale, ma molto diversa e molto simile a quella attuale, che adesso naturalmente ha precisioni diverse e soprattutto forse oggi ha anche elementi qualitativi diversi come le comunicazioni. Ma il concetto della medicina basata sulle evidenze fu coniato per la prima volta nel 1992, quindi 25 anni fa. Vedete il sottotitolo, credo sia rilevante, un nuovo approccio all'insegnamento della medicina pratica, all'insegnamento, quindi come trasferire le competenze. E qual era la logica? Era l'integrazione delle evidenze derivanti dalla ricerca, le evidenze migliori, con l'esperienza clinica che era necessaria a monte, perché la domanda che la medicina delle evidenze pone evidentemente deve essere la domanda appropriata. Se di fronte a un paziente che ha una pleurite, io non capisco che è una pleurite e immagino che sia un infarto, evidentemente io faccio, ricerco le evidenze per l'infarto e non quelle per la pleurite. Quindi la competenza clinica è necessaria a monte per individuare la domanda a cui trovare una risposta e a valle della risposta, perché la decisione se a quel singolo paziente che ho di fronte è applicabile l'evidenza che ho ritrovato richiede la capacità di mediare e di capire quanto, e vedrete qualche immagine molto indicativa in questo senso, quanto ci si può aspettare che a quello specifico paziente sia applicabile quell'evidenza che in realtà è stata ottenuta su un gruppo non identico. Dave Sackett è stato il padre dell'evidence-based medicine, ha avuto tanti allievi, io sono stato uno di quelli a Oxford, e avevamo questo che era l'evidence cart, era il carrello delle evidenze. Il carrello delle evidenze che era non facile da spostare, molto pesante, vedete c'è anche questa valigia di corredo, e erano i primi anni prima di internet, prima dell'informatizzazione, e serviva per cercare di trovare le evidenze quando di fronte al singolo paziente, naturalmente come immaginate non era così regolare l'impiego di questo sistema, ma di fronte a un paziente in cui avevamo la percezione di dover approfondire, avevamo questo strumento per approfondire, era l'evidence card. E poco dopo il conio del termine evidence-based medicine vennero le evidenze del fatto che l'applicazione delle linee guida della British Thoracic Society per gli steroidi inalabili portò a un aumento dell'impiego di questi farmaci e a una riduzione sensibile della mortalità e della morbilità. Dall'altra parte, la utilizzazione delle linee guida del NICE, National Institute for Health and Care Excellence, portò a una riduzione drastica delle complicanze tromboemboliche. Quindi c'era evidenza che l'applicazione delle evidenze dava come risultato un miglioramento della clinica. Però le persone non sono uguali. Qui c'è un esempio molto rudimentale della differenza indicato con la lunghezza di un arto, ma naturalmente possiamo immaginare tutti gli elementi di una persona che possono essere differenti per tutta una serie di motivi. Il termine medicina personalizzata inizialmente è stato sostanzialmente avvicinato in modo molto deciso alla genetica. La personalizzazione fu per parecchi anni, era l'epoca in cui si faceva la valutazione del genoma. Voi sapete che il primo genoma è stato analizzato compiutamente non moltissimi anni fa, e c'era un'attesa molto forte per il fatto che si pensava che la conoscenza del genoma avrebbe portato a conclusioni decisive nella medicina. Ovviamente le conclusioni e i dati ce ne sono moltissimi, basta pensare che il primo genoma è stato studiato al costo di molti milioni di dollari e attualmente fare una sequenza di un genoma umano costa meno di $1,000 e quindi la possibile diffusione a livello privato, per esempio negli Stati Uniti, è molto ampia. Peccato che forse non ci fosse stata sufficiente attenzione a un fatto che tutti più o meno conoscono, che il bruco e la farfalla hanno lo stesso identico genoma, soltanto che il gioco della inibizione, della stimolazione dei diversi geni, cioè l'accensione o lo spegnimento dei geni, fa sì che la produzione delle proteine sia molto diversa. Nel caso del bruco e della farfalla non c'è bisogno di dilungarsi in ulteriori particolari, perché le caratteristiche fenotipiche e quelle funzionali sono sensibilmente, molto sensibilmente diverse. E quindi è vero, se voi guardate Wikipedia, ormai io ritengo sia quasi un obbligo avere in mente cos'è che si trova su Wikipedia, rimanda anche alla genetica, perché la genetica è considerata un elemento di personalizzazione, e certamente lo è, ma non è tutto genetica. E quello che trovate in Wikipedia è parte di una serie sulla genetica, per l'appunto. È un modello medico che separa i pazienti in gruppi diversi, perché naturalmente la personalizzazione sarebbe della persona. Prima di arrivare alla persona, e qui io non parlerò di questo, dell'argomento della medicina di genere, ma la medicina di genere già basterebbe suddividere in due grandi tipologie, che naturalmente sappiamo per una serie di situazioni hanno senso in senso clinico, e poi naturalmente andare per stratificare fino alla persona. Per ritagliare sulle necessità del singolo paziente, anche conoscendo la loro risposta o il loro rischio di malattia. Un esempio che non era noto fino a qualche decennio fa, io ho avuto occasione all'inizio della mia attività clinica di curare pazienti di etnia nera con scompenso cardiaco, e non sapevamo che alcuni dei farmaci più efficaci normalmente nella nostra popolazione, come gli ACE inibitori, erano molto poco efficaci, mentre i diuretici, che nella nostra popolazione sono efficaci, ma in una certa misura sono molto, molto più efficaci nei soggetti di etnia nera. Questo è stato anche riportato alla capacità di resistere alle privazioni di acqua durante il trasferimento transoceanico, quando venivano trasportati come schiavi. Però al di là di quello che sia il motivo, certamente oggi sappiamo che i farmaci dello scompenso sono diversi, addirittura esiste un farmaco etnico, potremmo definirlo, il BDIL, che è l'associazione di due vasodilatatori, l'idralazina e i nitrati, che è specificamente indicato nel trattamento dello scompenso in soggetti di etnia nera. Questo per dare un esempio di come si può avere in quel caso anche visibilmente una differenza, ma quante altre differenze esistono? In questo caso io ho ricordato che ci sono dei termini che sono la medicina delle 4P, hanno comunque un significato simile, anche se ci sono delle nuance particolari. Questa è la medicina delle 4P, predittiva, preventiva, partecipativa e personalizzata, dove vedete un termine, l'ICT, l'Information Communication Technology, che è quel qualcosa in base al quale è stata possibile l'evoluzione in questa direzione. Qui vedete si è addirittura ipotizzato di fare rientrare la precision medicine nella medicina personalizzata. A parte tutto questo, però, vale la pena di ricordare Richard Smith. I lettori del British Medical Journal lo ricorderanno come editor in chief per decenni, di grande qualità, ha scritto questo articolo in cui l'attenzione alla medicina stratificata la vedeva come una tappa verso la medicina personalizzata, che intanto comincia a suddividere in strati diversi di popolazione prima di arrivare al singolo individuo. E qui c'è il termine della medicina delle 4P che abbiamo appena visto, che ha conquistato attenzione e che nelle stesse pubblicazioni, vedete, ha visto la medicina personalizzata crescere a partire dagli anni 2000-2005 in misura costantemente crescente. Ecco, in questo caso vedete la medicina personalizzata su PubMed condivide gli articoli di ricerca in blu con quelli rossi che sono di tipo clinico, e vedete come l'associazione di termini più comune è quella di medicina personalizzata e bioinformatica. Non a caso prima ho citato l'Information Communication Technology, perché tutti i medici, diciamolo pure, hanno personalizzato le terapie per i loro pazienti da sempre. Non c'era bisogno che arrivasse la evidence-based medicine o arrivasse l'information communication technology, soltanto che gli strumenti per personalizzare erano strumenti, diciamo pure, grossolani. Il tenere conto dell'esistenza di un certo tipo di struttura genica, oppure tenere conto dell'esistenza di fattori di rischio ulteriori collegabili con le abitudini, non ha visto una capacità di misurazione e di calcolo tanto precisa da poter realmente personalizzare sul singolo individuo. Allora, uno dei grandi ostacoli alla medicina personalizzata è stato il concetto di malattia, che certamente tutti i medici amano molto. La medicina ha creato una ontologia, che è la malattia, che è un concetto per in qualche modo accordo fra i clinici, ma che non necessariamente corrisponde alla realtà. Vi faccio un esempio un po' banale, ma forse qualcuno ricorderà che la legionellosi, che oggi conosciamo come malattia infettiva altamente pericolosa delle vie respiratorie, era la malattia dei legionari. I legionari erano ci sono negli Stati Uniti queste associazioni di ex combattenti o di altro tipo. Questi legionari si erano riuniti al Mayflower a Filadelfia, un vecchio albergo, e avevano fatto le loro cerimonie, poi erano ritornati nelle loro sedi e dopo un po' purtroppo cominciarono a ammalarsi e a morire con una certa frequenza di problemi respiratori. La malattia dei legionari, sulle riviste di grande valore, fu attribuita per un certo tempo alla plastica dei bicchieri in cui avevano bevuto. Era totalmente falso, ma per un certo tempo la letteratura internazionale riteneva che questo fosse il motivo. Dopodiché si scoprì che si trattava invece di un batterio che si annidava nella scarsa manutenzione degli apparati di aereazione di questo albergo, con colonie molto ricche, e naturalmente infettando tutte queste persone, e quindi si chiamò legionella il germe interessato, e la malattia dei legionari, da essere legata alla plastica e agli ftalati dei bicchieri, diventò la malattia infettiva. Questo per dire che la malattia è una convenzione, è un accordo fra noi. Certamente, oltretutto, vi faccio un esempio, altrimenti prendiamo troppo tempo, qui il consenso naturalmente fra i medici. Ecco, una cosa che cito volentieri, perché la dimostrazione di quanto fallace sia questo, fu che nel 2007 uscì la definizione universale di infarto del miocardio. Ora il termine francamente è un po' roboante, in medicina universale forse non c'è quasi niente, o perlomeno è difficile che ci sia. A dimostrazione di questo è il 2007, nel 2010 nacque la nuova definizione universale dell'infarto del miocardio, e nel 2012 la terza definizione universale di infarto del miocardio. Credo dando una buona dimostrazione di come la definizione universale fosse stata spesa forse un po' troppo largamente. E c'è un concetto che è stato sviluppato da questo articolo di Visione, dall'editor in chief di European Journal of Nanomedicine, che parlava di medicina basata sulle conoscenze, personalizzata al posto della medicina basata sulle evidenze. E quindi i colleghi capiranno perché io mi sono permesso di rimodulare un po' il titolo, perché se non si ha chiaro cosa la medicina basata sulle evidenze ci dà, è meno facile capire il percorso necessario per andare verso la medicina personalizzata. E cosa diceva questo articolo? Diceva che l'infarto del miocardio, e quando si parla di infarto tutti pensano più o meno di sapere di che si tratta, ma non è così, perché è un continuum in cui c'è la sede, il tempo, la gravità, che sono elementi tutti che rendono l'infarto uno diverso dall'altro, e poi fattori individuali non locali nelle coronarie, cioè per esempio il grado di aterosclerosi subclinica non correlata con l'evento. Immaginiamo un paziente con infarto che ha uno shock, se ha un'arteriopatia periferica importante, è vero professor Grego, credo che succederanno cose molto diverse da chi non ha un'aterosclerosi periferica, che possono determinare queste cose, in realtà l'esito del paziente. Oppure la variabilità, anche questa poco prevedibile se non la si misura, della risposta ai farmaci, dei sistemi coagulativi e delle piastrine che vengono utilizzati. In questo momento il trattamento standard dell'infarto è il trattamento con angioplastica primaria, ma poi si usano farmaci per permettere di mantenere il grado di ripresa del circolo che si è ottenuto. Quindi tutto questo rende difficile la definizione di una malattia come tale. E in questo caso l'attenzione da parte di questo gruppo, The Personalized Medicine Coalition, cioè un gruppo che si è proposto di affrontare il problema, è anche quello di dare un approccio di sistema che esca da quelle evidenze che la medicina delle evidenze ci fornisce, evidenze semplici collegate a malattie. Questo ci dà. Qual è il limite? Beh, è semplice, per il paziente medio. Il paziente medio, lo studio 4S, lo studio in base ai quali il primo studio che ha dimostrato l'efficacia delle statine nelle dislipidemie, l'età media era 60 anni. Ora, quanto spesso noi nei nostri ospedali vediamo pazienti di 60 anni? I miei collaboratori dicono c'è un ragazzo di 60 anni, la maggior parte dei pazienti che abbiamo sono oltre 80 anni. Quindi evidenze su quel settore ce ne sono non molte. E ancora lo studio SAVE, il primo studio che ha dimostrato l'efficacia degli ACE inibitori, aveva pazienti sotto i 60 anni. E oggi, per tutta una serie di motivi che tutti sanno, è inutile che io stia a ricordarli qua, l'età media dei pazienti che vediamo è ben diversa. Naturalmente perché questo è diverso? Perché i pazienti di 50 anni hanno, per esempio, una prevalenza di ipertensione che è di circa 1 su 4. Oltre i 70 anni è perlomeno superiore al 50%. È più facile che siano ipertesi le persone ultra settantenni che piuttosto che siano normotese. E questo ha provocato anche un grave problema che negli studi clinici erano utilizzati come criteri di esclusione, per esempio l'età superiore ai 75 anni, le comorbilità o la polifarmacoterapia. Quindi i pazienti più complessi in realtà sono stati spesso scartati negli studi. E in realtà se noi vediamo arrivare un paziente con una sindrome coronarica acuta, nulla può vietargli, e spesso ce li ha, di avere una serie di altre condizioni cliniche che, variamente intersecandosi fra loro per presenza e per gravità, possono determinare in realtà condizioni assai diverse. Lo stesso per la fibrillazione atriale, lo stesso per lo stroke. E allora emerge un concetto, la sanità elettronica. Perché la sanità elettronica? Perché di fatto l'analisi di questi elementi richiede la capacità di avere quello che ancora in Italia purtroppo non è stato realizzato, ma un dossier sanitario elettronico, le cartelle cliniche computerizzate, le prescrizioni elettroniche, le certificazioni telematiche e poi quello che si sta muovendo, e accenneremo fra qualche istante, i big data, il cloud computing, la capacità di calcolare a livelli estremamente potenti quello che noi misuriamo. E da 22 anni dall'uscita dell'evidence-based medicine, Tricia Greenhalgh, una collega che è professore ordinario di medicina generale a Oxford e che era una dei firmatari del primo articolo del 1992, ha capitanato un gruppo che dice l'evidence-based medicine, un movimento in crisi, e come ha accennato il mio presentatore oggi, ha parlato di rinascimento dell'evidence-based medicine. E fa un esempio molto semplice. I pazienti riferiscono farmaci, ciascuno con un obiettivo. Il chinino per i crampi, il colecalciferolo per le ossa, il ramipril per la pressione, simvastatina per il colesterolo, l'aspirina per il sangue, bisoprololo per il cuore, metformina per il diabete. Quindi una serie di prescrizioni. Una signora asiatica di 83 anni, e in cui ci si chiede quali sono le diagnosi in una signora asiatica ultra ottantenne, quali sono l'efficacia, i benefici o i rischi dei vari trattamenti. Evidentemente non lo sappiamo. La risposta è molto semplice, non lo sappiamo, perché ci sono pochissimi dati a darci supporto in tutto questo. E allora un problema che già più di 10 anni fa era emerso, che noi abbiamo delle linee guida di malattia, e cosa facciamo con un paziente che ha più malattie? Questo è elementarmente complesso, e la soluzione il medico la deve trovare, perché diversamente da chi teorizza, il medico che fa il clinico deve operare, deve navigare in qualche modo. Naturalmente la scelta sarà una scelta gerarchica, tanto più probabilmente appropriata quanto maggiore è la capacità del medico di integrare tutti gli elementi che ha di fronte. Perché naturalmente avere un infarto e poi avere una embolia polmonare in un paziente che è diabetico o non è diabetico pone delle differenze di gestione assai diverse. Il termine ulteriore, c'era la medicina delle 4P, la quinta P, la precision medicine. Nel tentativo molto elementarmente chiaro di creare delle comunità di informazione che consentissero, faccio un esempio molto facile, molto comune, pazienti che hanno contemporaneamente problemi cardiologici e respiratori. La dispnea rappresenta uno degli elementi clinici che può avere una serie di cause molto numerose, e naturalmente non si può neanche escludere che alcune di queste cause coesistano contemporaneamente senza sapere esattamente con quale ruolo relativo. Quindi su questo settore a livello europeo, in particolare in Belgio, si è affrontata la problematica cercando di descrivere il meglio possibile questi pazienti alla ricerca del confine o comunque di una nuova tassonomia. Noi in questo momento, in questo settore, parliamo per le malattie respiratorie di broncopneumopatia cronica ostruttiva, ma come molti colleghi sapranno esiste una deriva importante, in particolare in alcune sedi anche italiane, verso un ritorno alla vecchia definizione di pazienti bronchitici e pazienti enfisematosi, con in realtà due quadri clinici e due fenotipi sensibilmente diversi. Quindi una nuova tassonomia che vada con maggiore precisione. Ma perché è nata oggi la medicina personalizzata? Questa è un'immagine che ci ricorda che la maggior parte dei progressi della scienza sono avvenuti per scopi bellici. Questo è il primo grande computer con 18.000 valvole termoioniche serviva per i calcoli balistici, per i cannoni della Marina degli Stati Uniti. Vale la pena di ricordare che poi, se andate a transistor, io non devo parlare di transistor, ma quello che noi possiamo fare oggi è legato a questa evoluzione, e come forse potete vedere, questa è la Moore School of Electrical Engineering nell'Università della Pennsylvania. Beh, c'è la legge di Moore. La legge di Moore, che è una previsione che è rimasta vera da 50 anni. E cosa dice? dice che in un circuito integrato il numero di transistor componenti raddoppia ogni 2 anni. Ora, io non sono un ingegnere elettrotecnico, però quasi tutti voi avrete in tasca qualcosa che assomiglia a questo. Ecco, tenete presente che questo ha una potenza di calcolo che è 10 volte superiore a Deep Blue, che fu il computer dell'IBM che sconfisse Kasparov agli scacchi. Questo ha 10 volte quella potenza. Noi non lo usiamo assolutamente, perché non abbiamo i sistemi per usarla. Però questa evoluzione dei transistor è importante perché ha consentito di miniaturizzare le 18.000 valvole termoioniche. Oggi stanno su forse meno di 1 millimetro di quello che noi abbiamo nel nostro computer, e hanno consentito di sviluppare sistemi di calcolo di incredibile potenza. Questa è una citazione di Einstein molto nota, io la ricordo perché i computer sono veloci e accurati, ma sono stupidi. Gli uomini sono lenti, inaccurati e intelligenti, e insieme sono una potenza che supera l'immaginazione. Beh, questa immagine l'ho trovata oltre 100 anni fa, non prevedeva l'uso del Wi-Fi. Vedete che c'erano qui dei libri che venivano infilati in questa specie di macinatore e poi venivano trasferiti agli allievi. Questo anche, vedete, la mancanza dei sistemi di telecomunicazione faceva vedere le strade piene di fili, ma dall'evidence card ormai con i nostri sistemi abbiamo quella potenza molto facilmente. E cosa ha permesso questo? Ha permesso un qualcosa che in realtà la medicina delle evidenze aveva tentato di fare senza riuscirci, diciamo pure minimamente, che ciascun medico avesse la possibilità, leggendo un articolo, letteratura primaria, di analizzarlo, essendo preparato a farlo, quindi essendo in grado di capire bene. Io ho tradotto uno dei primi libri della Evidence-Based Medicine, proprio scritto da Tricia Greenall, che era intitolato How to Read a Paper, cioè come si fa a leggere un lavoro scientifico. E cito solo una cosa molto vera, io lo condivido in pieno, che diceva se durante il percorso del studio, di uno studio clinico, si perdevano più del 20% dei pazienti al follow-up, la cosa migliore da fare era chiudere quell'articolo e leggerne un altro, perché la perdita del 20%, non sapendo dove era la perdita, avrebbe compromesso in modo probabilmente irreparabile la randomizzazione e quindi la capacità di pesare i due gruppi. Ecco, ma in realtà l'applicazione agli articoli originali è stata marginale. È stato molto più importante la letteratura secondaria, cioè le sintesi e le revisioni sistematiche, e ancora di più quella delle linee guida, la letteratura terziaria. Voi sapete che nel nostro paese, in questi giorni, probabilmente verrà applicata una legge sulla responsabilità civile, sulla responsabilità medica nei confronti dei pazienti, e le linee guida avranno un'importanza vitale. A livello dell'Istituto Superiore di Sanità, il dottor Primiano Iannone ha preso la responsabilità di tutto questo e darà gli elementi per le linee guida. Quindi quello che in realtà si è sviluppato moltissimo è stato la letteratura terziaria. E qui c'è di nuovo un'immagine in cui i dati della salute sono concentrati in qualche modo, ma la citazione è obbligatoria di Watson. Watson era uno dei fondatori dell'IBM, il quale ha dato il nome a questo progetto che usa il Natural Language Processing, cioè il processamento del linguaggio naturale e la ricerca semantica. Con quale sistema? Anche questo sistema è stato messo a punto per motivi non bellici in questo caso, ma di sicurezza. Voi sapete cos'è Echelon? Echelon è quel sistema di ascolto che ascolta tutte le nostre telefonate, cioè non le ascolta davvero, ma le valuta. E quando trova delle aggregazioni di parole che sono considerate dagli esperti della sicurezza a rischio per la sicurezza del paese, vedete che ogni tanto arrivano a prelevare in qualche strano posto delle persone che hanno fatto dei colloqui, delle conversazioni che contenevano questo. Ora, questo cos'è importante? Perché ha consentito di fare in pratica, questo è Watson, di integrare, in questo caso integrare i dati clinici di ricerca, le linee guida, i dati clinici personali in modo tale da poter mettere insieme quello che la letteratura ha prodotto, tutto, praticamente tutto, alla rinfusa, senza nessuna selezione, questo è il caso di dirlo, perché il sistema evidentemente non è selezionato. Beh, comunque consente, ha consentito di affrontare, in particolare in alcuni che sono i templi dell'oncologia mondiale, la personalizzazione dei trattamenti per l'appunto utilizzando sistemi di calcolo avanzato. Questo non è ancora diffuso in altri settori, è chiaro che a livello oncologico c'è un vantaggio particolare che è quello del genoma della cellula tumorale che consente una mira molto precisa, tuttavia si sta estendendo anche ad altri settori. E l'attenzione è doverosa a questo. Ecco, vedete questa persona. Ecco, guardatela bene. Questa persona non esiste perché rappresenta l'integrazione dei volti dei 2600, poco più, abitanti di una cittadina dell'Essex. E il senso qual è? Che rappresenta la persona media dell'evidenza della evidence-based medicine, perché noi abbiamo un'evidenza che riguarda una media per una persona che potrebbe non esistere. In questo caso questa persona è il risultato dell'integrazione di queste immagini. Come avrete forse notato, è anche difficile capire se si tratta di un uomo o di una donna, e questo va bene perché sono stati integrati volti umani femminili e maschili. Ma questo rende bene l'idea, perché non dimentichiamoci che molti degli studi su cui abbiamo basato le nostre evidenze con molta sicurezza non prevedevano la differenza fra i due generi e soprattutto prevedevano una ampia gamma di caratteristiche che poi veniva mediata. Quindi il passaggio importante è che quello che è il meglio per la media deve essere per forza il meglio per tutti, e questo è il problema. In questo caso c'è una battuta che viene utilizzata molto dagli amici nordamericani, l'errore di Wennington, che era un giocatore di pallacanestro, e che diceva: io e Michael Jordan abbiamo fatto 57 punti, solo che lui ne aveva fatti due e Michael Jordan aveva fatti 50 e tutto il resto. Quindi è banale questo forse, però rende l'idea di come la utilizzazione di valori medi sia un problema che non ci consente di andare verso questo. E allora io qui vi mostro un po' quei vari termini che si utilizzano, compresi la medicina narrativa, perché Watson probabilmente ci aiuterà molto. Perché quando noi raccogliamo l'anamnesi di un paziente, abbiamo due modi: o la raccogliamo, oppure utilizziamo un sistema arborizzato, in cui ci sono una serie di domande, quasi infinite, molto difficili, che di solito poi non coprono tutto, ma con questo sistema di analisi semantica non è necessario, perché il sistema è in grado di catturare, attraverso le aggregazioni terminologiche, quello che serve all'interno dell'anamnesi. E questo è forse il passaggio maggiore in cui la personalizzazione passerà attraverso la medicina narrativa. Perché è successo adesso? Beh, abbiamo già detto, perché il genoma è stato sequenziato, le tecnologie dell'analisi sono andate molto avanti e abbiamo nuovi strumenti per valutare i grandi database. Però, due anni fa, Nature pubblicò questo articolo molto, molto carino: Imprecision medicine. Nel momento in cui si parlava di medicina personalizzata e di precisione, si parla di medicina della imprecisione. Beh, in realtà voi vedete che in questo caso è indicato in azzurro quell'unico paziente che beneficerà di un trattamento, mentre tutti gli altri assumeranno quel trattamento senza averne beneficio. Qui non è riportato il caso più vantaggioso che abbiamo in questo momento, che è quello del trattamento dell'epatite. In quel caso basta trattare un paziente perché il risultato, sapete, è oltre il 95%, ma è un caso unico. In tutto il resto abbiamo una grande differenza fra il singolo paziente che ha vantaggio e tutti gli altri. E è stato anche coniato questo termine, time for one person trial. Beh, in realtà i medici l'hanno fatto da sempre. Quando si cura un iperteso, mediamente, poi si misura la pressione e si vede se la pressione ne ha risentito positivamente oppure no. Quando si tratta un ipercolesterolemico, si misura e poi si vede, perché non tutte le persone rispondono ugualmente al farmaco. Questo è il motivo della medicina personalizzata. E è stato anche utilizzato, e ci sono articoli importanti in questo senso, soprattutto in medicina respiratoria, perché la sensibilità, per esempio, ai farmaci che inibiscono i leucotrieni nell'asma dipende dal ruolo che la via leucotrienica gioca nell'asma. Se ha un ruolo importante sono molto efficaci, se ha un ruolo marginale non sono utili. Quindi il fatto di analizzare sul singolo paziente la capacità di risposta a vari farmaci rappresenta un qualcosa che ha senso per la medicina personalizzata. E allora si va verso qualcosa che i nostri smartphone ci hanno insegnato a avere sempre, cioè i sistemi georeferenziati, per cui dovunque ci si trovi viene proposto quanto di più vicino in termini di ospedali, di ristoranti, di distributori di benzina, tutto questo. Beh, fare la stessa cosa a livello del nostro corpo, utilizzare il genoma, l'epigenoma, i segni e i sintomi, l'esposoma per i singoli pazienti può rappresentare una strada interessante. Io qui sorvolerò su queste che sono rappresentazioni grafiche, ma addirittura si parla di disisom, malattioma, cioè come all'interno di una malattia si abbia un insieme di variazioni che hanno senso. E la network medicine va in questa direzione cercando di attribuire al singolo paziente ammalato per l'appunto quello che è appropriato per offrirgli il trattamento migliore. E questo insieme, la genomica, la proteomica, la metabolomica, i dati che i vari sensori, in questo caso ecografici, possono raccogliere, l'analisi complessiva insieme a un sensoring sempre più avanzato. Probabilmente tutti sapete che i nostri smartphone registrano molte più cose di quelle che ci fanno vedere. Ci dicono se dormiamo, se camminiamo, se andiamo in bicicletta, se andiamo in macchina, se andiamo a piedi, perché è in grado il sensore di riconoscere questi movimenti, e ormai la sensoristica ci sta dando quello che si chiama la fenotipizzazione del comportamento attraverso sistemi. Questo è un sistema un po' iniziale, rudimentale, oggi ci sono braccialetti che fanno praticamente tutto questo, che ci dicono come ci si comporta. E Barack Obama nel 2015 lanciò la Precision Medicine Initiative, dando un supporto economico molto importante alla informazione personalizzata, il giusto farmaco alla giusta dose al paziente giusto. E il seguito è ancora in corso, con la necessità e l'impegno a trovare il migliore trattamento possibile, identificando le necessità e per l'appunto migliorando i suoi risultati. Un punto importante nella personalizzazione è che noi, pur sapendo per esempio con le linee guida quello che dovremmo fare, dobbiamo sapere bene cos'è all'interno di un intervento, chi lo fornisce. L'esempio del chirurgo è troppo ovvio per farlo. Naturalmente la capacità a parità di atto chirurgico, della maestria di un clinico esperto oppure l'inesperienza di una delle prime armi può modificare profondamente il risultato. Ancora, dove questo avviene? È noto che per esempio per le attività in emergenza il volume di attività rappresenta un fattore fondamentale per il risultato, indipendentemente addirittura, perlomeno per l'angioplastica coronarica, dall'operatore. È importante l'insieme, perché in realtà, come si sa, è la risposta alle complicanze che in un gruppo addestrato è facile e automatica, in altri gruppi è difficile. E ancora, chi è? E qui di nuovo la personalizzazione, l'obiettivo dell'intervento. E allora la medicina integrativa? È chiaro che la medicina integrativa si colloca da sempre, da molto prima che il termine medicina integrativa venisse utilizzato nella medicina, diciamo così, classica, in realtà era un cambiamento di paradigma dal sistema che metteva al centro la malattia, di cui io vi ho parlato in precedenza, a un approccio in cui il paziente, i suoi valori e la sua partecipazione sono centrali. In realtà nello stesso numero del New England del 1 marzo del 2012 uscirono tre articoli che sostanzialmente dicevano tutti la stessa cosa, cioè la medicina centrata sul paziente, le decisioni condivise, la cura del paziente orientata a obiettivi che il paziente condivideva. L'esempio che è citato in questi articoli, che però mi sembra molto calzante, è quella di un paziente iperteso in cui un medico molto attivo prescrive un trattamento molto intenso e che rende difficile per il paziente, per esempio, mantenere la stazione eretta quando durante la notte si alza dal letto. E il paziente saggiamente non utilizza tutti i farmaci perché teme il suo rischio di caduta, e sa benissimo che in un soggetto anziano il rischio di caduta rappresenta una delle cose da evitare assolutamente. Quindi in questo caso la ostinazione del medico nel voler raggiungere i valori indicati dalla linea guida deve essere temperata non solo dalla ragionevolezza, basterebbe quella, ma in questo caso dal fatto che il paziente indichi il suo timore di andare incontro a problemi e quindi condivida una decisione diversa. E c'è un aspetto molto importante che nasce da lontano. Francis Galton, i medici presenti si ricorderanno il fischietto di Galton, che era un fischietto ultrasonico che viene udito non da noi, non dagli umani, ma viene udito dai gatti e dai cani piccoli, perché hanno un apparato uditivo che ha le dimensioni giuste per entrare in vibrazione a quelle frequenze. Beh, lui creò nel 1884 un laboratorio antropometrico, ma misurava quello che si poteva misurare allora, cioè l'altezza, la forza della mano, la forza del pugno, l'acuità della vista e dell'udito, la capacità polmonare. Quindi queste cose, oggi questo lo si reinterpreta attraverso il progetto Fenoma Umano, che ha seguito il progetto Genoma, tendendo ad offrire tutti gli elementi che oggi possiamo misurare e che abbiamo visto in precedenza. Le informazioni fenotipiche sono in grado di darci sulla personalizzazione molto. E la medicina integrativa che ruolo gioca? Beh, questa è la definizione del centro dell'Arizona. Io vi mostrerò essenzialmente tre grandi centri, quello dell'Arizona, quello della Sloan Kettering e quello della Duke University. Perché l'attenzione alla integrazione della medicina, di quanto noi possiamo offrire attraverso la medicina classica, con ulteriori elementi, rappresenta oggi un qualcosa che, pur con la necessaria attenzione ad atteggiamenti non scientifici, invece trova una precisa utilizzazione in ambienti che non sono certamente a sospetto di ascientificità. L'uso di tutte le terapie appropriate e adatte per un paziente rappresenta per l'appunto l'integrazione. I termini in precedenza utilizzati, medicine alternative o medicine complementari, in realtà oggi lasciano lo spazio al concetto di medicina integrata, che per l'appunto può avere vari aspetti. Io qui mi prendo la curcuma longa. La curcuma longa è stata utilizzata da molto tempo con una serie di diverse efficacie. Quello che io vi mostro è un qualcosa di molto preciso. La curcumina è in grado di prevenire la insufficienza renale da cisplatino attraverso una sua interferenza con l'espressione genica delle cellule tubulari del rene. Quindi è un qualcosa che evidentemente non è la terapia per il paziente che, oncologico, che assume il cisplatino, deve assumere il cisplatino, ma in questo caso l'integrazione con questo trattamento può, in questo caso proprio con un meccanismo molecolare preciso, essere di aiuto. La agopuntura, io devo dire, ho avuto occasione in passato di discutere questo con i vertici della farmindustria, i quali erano molto irridenti nei confronti dell'agopuntura. Come probabilmente molti dei presenti sanno, esistono ricerche compiute in modo preciso, esistono interventi compiuti senza anestesia ma con l'agopuntura, quindi esistono una serie di elementi che fanno sì che le migliaia di anni in cui l'agopuntura viene utilizzata, in particolare in alcuni paesi, ma poi anche più diffusamente, certamente hanno insegnato qualcosa. Qualcuno certamente dirà che non solo di agopuntura si deve parlare, ma anche di digitopressione, che in molti casi esercita lo stesso effetto dell'agopuntura, ma certamente esistono evidenze, che qui ci sono i punti di riferimento, la attenzione alla utilizzazione dei sistemi di valutazione nella medicina cosiddette complementari o alternative rappresenta uno strumento importante, anche se, e questo è un articolo ironico che probabilmente qualcuno dei colleghi ha letto sul British Medical Journal, si considera che l'omeopatia, vedete, è trattata in modo molto diretto, le compresse omeopatiche sono placebo, ma la risposta a placebo è grande, fino al addirittura in qualche caso l'80%. Cosa vuol dire? Che l'omeopatia è sicuramente una scienza che non utilizza le evidenze necessarie, ma in qualche modo porta a una valutazione della persona che rappresenta in realtà un obiettivo non dichiarato, ma molto preciso. Qui vedete la utilizzazione, questo è un giornale canadese, che vedeva come via via ci fosse una attenzione a questi vari tipi di terapie. Questo è un documento molto significativo del 2002 della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che fu seguita l'anno dopo da un documento che io ebbi l'opportunità di stilare sulle modalità di insegnamento e su quali insegnamenti fossero appropriati nelle facoltà di medicina, perché come immaginate bene i farmaci d'abuso non dovrebbero essere usati, ma il fatto che si insegni è comunque opportuno. Anche alcuni trattamenti che non sono dimostrati come efficaci, è bene che siano insegnati. Queste sono le caratteristiche di questo documento, che ormai è un documento datato, ma certamente la attenzione alla ricerca in medicine non convenzionali ha una sequenza apparentemente invertita, in cui dalla fisiopatologia, come in medicina convenzionale, si scelgono strade diverse, ma alla fine il risultato è sempre il solito. Queste sono le evidenze necessarie anche nella medicina non convenzionale. Al primo punto vedete i studi randomizzati di N uguale a 1, quello che ho appena detto in precedenza e che probabilmente troverà nuovo impulso nei prossimi tempi, potendo utilizzare nell'ambito delle database che vengono costruiti in base al comportamento di fronte ai trattamenti dei singoli pazienti, potendo individuare tutti gli elementi che sfuggono all'analisi del singolo medico, ma che possono essere analizzati sulle grandi coorti. Questa è l'agopuntura, l'efficacia dimostrata in una serie di articoli validi, i trial tedeschi e poi l'analisi da parte del Lancet pochi anni fa e una serie di analisi della Cochrane Collaboration. La Cochrane Collaboration è quell'insieme di ricerche che analizza in letteratura terziaria i risultati dei vari studi clinici per individuare la significatività dei comportamenti. E qui vedete la ginkgo biloba, il biancospino, l'aglio, ma l'attenzione che in medicina integrativa è sempre necessaria e che quando si utilizzano questi farmaci spesso vengono utilizzati da soli. La possibilità che questi agenti fitoterapici possano influenzare l'assorbimento o il metabolismo o le varie altri tipi di modificazioni di altri agenti terapeutici utilizzati rende sempre necessaria un'attenzione precisa. Un punto, in questo caso sull'emicrania, era stato individuato il farfaraccio, il butterbur, come che è qui indicato col termine più generale, come elemento utile. In realtà qualche anno dopo l'attenzione alla sicurezza ha obbligato alla riduzione della significatività di questo dato, perché l'associazione con alcune sostanze attive in senso negativo ne ha reso problematico l'utilizzo. L'attenzione alle linee guida per l'uso delle terapie integrative è cresciuta nel tempo. In questo caso le sindrome depressive e l'uso di alcuni fitoterapici ben noti come l'erba di San Giovanni ha portato a una serie di studi, e in questo caso cito con piacere, io quando mi trovavo nella commissione ricerca del Ministero della Salute, al primo progetto Giovani Ricercatori vide al primo posto fra tutti una serie di progetti molto complessi, tecnologicamente avanzati, questo studio del dottor Vannacci, che ha lavorato sulla fitoterapia tradizionale cinese. Questi sono gli effetti che la fitovigilanza è chiamata ad avere in attenzione, in quanto un'attenzione obbligatoria è che nella terapia integrativa, che prevede l'uso di fitofarmaci, l'attenzione deve essere molto forte agli effetti tossici, che mediamente non vengono valorizzati, ma che adesso sono oggetto di un particolare centro all'Istituto Superiore di Sanità. L'attenzione alla medicina integrativa, e mi avvio rapidamente alla conclusione, è stata molto forte allo Sloan Kettering. Io ho ricordato in precedenza lo Sloan Kettering Center di New York come una delle sedi in cui la precision medicine, cioè la medicina personalizzata a impronta genomica, è più avanzata. Nello stesso prestigioso centro esiste l'Integrative Medicine Outpatient Building, cioè esiste una struttura dedicata in modo preciso alla medicina integrativa, e qui vedete i tipi di trattamenti previsti. Mi permetto, proprio perché il mio titolo lo prevede, che al di là di una lettura di tutti questi vari elementi, la musicoterapia. La musicoterapia che viene praticata in quella attiva e quella passiva. Qualcosa che naturalmente non è oggetto della mia presentazione di oggi è l'effetto Mozart, oppure la efficacia della nona sinfonia di Beethoven o la cantata 169 di Bach. Ora, al di là delle caratteristiche dei singoli brani, un qualcosa che tutti intendono facilmente è il senso di disagio, perlomeno per me è tale, quando si ascolta una musica molto bassa, perché questa mette in risonanza le cavità addominali essenzialmente del nostro organismo. Via via che la frequenza è più alta, che il suono è più acuto, vengono messe in vibrazione le cavità, fondamentalmente per i più acuti, paranasali oppure della mastoide. Ecco, questo è considerato un elemento che per molti di noi aggiunge all'aspetto favorevole dell'ascolto, dell'armonia, anche una sollecitazione sensoriale che per l'appunto viene considerata elemento nella riduzione della pressione, nel miglioramento del controllo respiratorio che si ha con la musicoterapia, sia passiva che attiva. Qui vedete, io non entrerò in dettaglio, quali sono i servizi del Centro di Medicina Integrativa. Ci sono in particolare la mindfulness, rappresenta oggi un elemento di grande attenzione. Probabilmente, se ci sono cardiologi presenti, sanno bene che le variazioni del rapporto simpato-vagale possono vedere in una attenzione tipo la mindfulness e del controllo respiratorio elementi utili per il miglioramento di questi elementi. Qui vedete altri elementi del programma clinico, e qui vedete una musicoterapia attiva, questa è la pediatria, e l'attenzione è a dare un supporto comprehensive, complessivo, quindi al di là di quello che le terapie di comprovata efficacia basate sulle evidenze possono dare, aiutare agli effetti fisici e emozionali che ci sono durante il trattamento del cancro. E quali sono gli obiettivi? Migliorare la situazione motoria, abbassare la nausea da chemioterapia, l'agopuntura in questo ha dimostrato buona capacità di efficacia, controllare una serie di altri elementi, non sarò qui in dettaglio, ma ci sono anche gli aspetti di ricerca avanzata sull'infedema cronico, sul trapianto di cellule staminali e sulla neuropatia indotta da chemioterapia. E poi la Duke, che ha un programma di integrative medicine che ha una definizione molto simile a quella che ho mostrato in precedenza per lo Sloan Kettering, e l'attenzione alla personalizzazione della cura, e qui è detto in maniera più dettagliata, proprio andando a cercare l'interazione fra i vari elementi che sono biologici, comportamentali, psicosociali e ambientali, e naturalmente tutti contribuiscono allo stato di benessere della persona, che sono ulteriori rispetto al trattamento certamente fondamentale di gestione attraverso le evidenze. E in questo caso vedete che l'attenzione alla scienza della cura è ampia, essendo il più possibile previsto l'impiego di metodologie naturali e poco invasive, con l'attenzione alla promozione della salute attraverso i vari mezzi che sono possibili. In questo caso l'integrazione delle medicine ulteriori rispetto a quelle di efficacia basata sulla medicina delle evidenze è l'elemento chiave. E qui l'attenzione alla ricerca della Duke University è costruire la base di evidenze per sostenere l'evoluzione dell'attività clinica sia locale che poi al di fuori della Duke University, ma utilizzando tutti gli strumenti potenzialmente utilizzabili. La medicina integrativa in realtà ha dimensioni molto diverse e la nostra attenzione non può non essere basata alla capacità di offrire al paziente. Immaginiamo un paziente con una situazione oncologica, ecco, dove si completa l'applicazione dei trattamenti basati sulle evidenze in senso chemioterapico, radioterapico, chirurgico, inizia l'attenzione a quanto ulteriormente è possibile fare e quindi l'integrazione di ulteriori approcci che possano sostenere ulteriormente il paziente o la paziente nel suo trattamento rappresenta un obiettivo che dalla medicina personalizzata, che certamente è un obiettivo che sarà raggiunto, non sappiamo quando, ma certamente sarà possibile avere elementi ulteriori per individuare come focalizzare e centrare meglio l'obiettivo, ma prevede anche una fase che si affianca al trattamento di base per favorire quella situazione in cui la persona trova un vantaggio ulteriore, la musicoterapia tipicamente è questo, in cui la capacità della persona di accettare anche gli effetti avversi di molti dei trattamenti, in oncologia questo è comune, può rappresentare uno strumento adatto a un approccio olistico, comprehensive, dicono gli inglesi, cioè complessivo, alla salute della persona. In questo senso, credo che il percorso dalla evidence-based medicine verso la medicina personalizzata e verso un'ulteriore personalizzazione in cui a parità di trattamenti basati sulle evidenze si associano ulteriori elementi di supporto per la salute rappresenti un qualcosa che certamente può avere una sua utilità. Grazie dell'attenzione. I giorni della Chiesa. Ringraziamo ancora il professor Gianfranco Gensini, già clinico medico di Firenze, esperto a livello internazionale dalla medicina personalizzata alla medicina integrata. Questo è stato il titolo del suo intervento, il quinto del ciclo promosso dall'associazione Ex Alunni dell'Antonianum sul tema della medicina, arte, scienza e pratica etica. Noi ringraziamo proprio l'associazione Ex Alunni dell'Antonianum per aver condiviso con noi questo percorso. Telechiara per la registrazione dell'audio. Eddie Dai ci ha curato la parte tecnica, Mirko Cavallini studio in redazione. A voi tutti buon proseguimento di ascolto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.